Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Zeno D'Agostino lascia l'autorità portuale, saluta i lavoratori. Oggi dice esiste un modello Trieste. Accoltellamento a Udine, forse feriti volevano fare da paceri, difficile gestire i minori che delinquono. Beni per 120.000 euro sequestrati dai carabinieri di Udine ai presunti autori di colpi agli ATM in tutto il nord del paese. Chilometri di coda sull'autostrada A4 a Sestiana per un'auto cappottata, subamputata una mano alla conducente. Lavori fermi alla ex fiera di Pordenone, la fretta era solo quella di tagliare gli alberi, scrive Legambiente. Basket, stasera gara 2 delle semifinali playoff, Trieste cerca un altro successo a Forlì, Udine in riscatto con Cantù. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli, il saluto dei lavoratori dei porti a Zeno D'Agostino, per 9 anni presidente dell'autorità dell'Adriatico orientale. Le sue dimissioni saranno operative da giugno, sentiamo. Lascia le guide del porto di Trieste dopo 9 anni, ma senza rimpianti. Anzi, nella sua conferenza stampa di commiato, il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, Zeno D'Agostino, ricorda i bilanci che sono ottimi, le assunzioni che crescono, gli investimenti che si aggirano sui 2 miliardi, ma soprattutto che si è imposta l'idea di un modello Trieste. Una cosa che spiega ha avuto come obiettivo l'interesse del territorio, non solo triestino, e al tempo stesso quella di mantenere l'efficienza aziendale del servizio. Il rilancio, spiega, non passa solo dei numeri, ma i numeri sono ottimi, ricorda, ma dalla visione che tiene insieme competitività e base sociale. Niente privatizzazioni, bensì internalizzazioni dell'attività per creare un sistema che copra le funzioni del porto. Non è quello che insegnano sui libri, dice, dove dicono sempre di terzializzare, ma che soddisfazione vedere negli anni funzionare, nei conti e negli effetti pratici, le cose che gli altri dicevano che erano sbagliate. In eredità ai suoi successori lascia un porto che definisce uno smart partner pubblico con cui i privati possono fare business, un porto che è diventato sistema coinvolgendo il territorio e aprendosi all'intermodalità con treni e servizi di scambio. Abbiamo spostato l'attenzione dai costi alla creazione di valore, una cosa che nel pubblico non si fa mai, dice. Per il suo futuro lascia trasparire poco, soltanto assicura, non andrà a dirigere altri porti. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora torniamo all'accoltellamento di sabato scorso a Udine con nuove ipotesi sulla dinamica di quanto avvenuto, ma anche relativamente alla difficoltà di gestire i casi più problematici. Stabile in regione il numero di reati commessi da minorenni, 1 migliaio all'anno. In calo quelli più gravi, violenze sessuali o spaccio di stupefacenti, ma aumentano estorsioni o rapine da parte di minori stranieri non accompagnati per sottrarsi piccole somme di denaro o capi d'abbigliamento. A dirlo il procuratore capo del Tribunale per i minorenni di Trieste, con competenza per la regione, Nicola Russo. Risse ce ne sono sempre state, aggiunge, ma nell'ultimo periodo sono precedute da attività sui social network, fenomeni di dissing, ovvero si inizia con battute, poi minacce, poi ci si dà appuntamento per dirimere la questione. Non entra nello specifico Russo, le indagini sono in corso e segrete, ma altre fonti confermerebbero proprio una dinamica di questo tipo per l'accoltellamento di sabato in vicolo Brovedan, a Udine. Una spedizione punitiva, uno dei ragazzi coinvolti sarebbe arrivato da Treviso per farsi giustizia. Non è escluso, ma le responsabilità sono al vaglio degli inquirenti, che 2 minorenni albanesi finiti in ospedale, uno di loro è ancora in terapia intensiva, fossero estranei alla resa dei conti e si siano presi le coltellate per essersi messi in mezzo. Entrambi i feriti sono ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati del territorio, quello più grave è in carico al Comune di Milano. Dal 2017 ad oggi, quasi quadruplicati gli arrivi di minori stranieri in regione, contando i procedimenti civili aperti al Tribunale per i minori di Trieste. Un operatore che gestisce una comunità per minori stranieri non accompagnati afferma che quelle che funzionano prediligono la funzione educativa a quella securitaria. Tuttavia, anche se denunci chi combina qualcosa, te li riportano indietro perché non sanno dove sistemarli, conclude. Questo non accade in presenza di reati gravi, i tempi della giustizia minorile sono molto più rapidi, indica Russo, che sottolinea tuttavia una carenza di posti non solo negli istituti penali minorili, il più vicino a Treviso, ma anche nelle strutture comunitarie che accolgono chi è destinatario di una misura cautelare. A volte passano settimane o mesi perché non si trova posto in cui collocarlo. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Fino a 6 km di coda questa mattina in A4 per un incidente avvenuto intorno alle 8:15, poco dopo l'area di Duino Sud in direzione Venezia. Stando ad una prima ricostruzione, un'auto ha sbandato finendo contro la scarpata rocciosa laterale, si è quindi ribaltata più volte finendo contro la barriera spartitraffico centrale. Ferita la conducente del veicolo che ha subito la subamputazione di una mano. Sul posto polizia stradale per i rilievi, vigili del fuoco, personale di Autostrade Alto Adriatico, ambulanza ed elisoccorso per trasportare la ferita. I carabinieri del nucleo investigativo di Udine con i militari di Treviso e Padova hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Brescia nei confronti di due uomini arrestati nel 2022 ritenuti responsabili di almeno una ventina di assalti con esplosivo a numerosi sportelli bancari automatici ATM in tutto il nord Italia, comprese le città di Udine e Pordenone. I colpi erano stati commessi anche a mano armata. I due devono rispondere anche di rapina, ricettazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento dei valori. Essere sequestrati un'abitazione del valore di 100.000 euro nella disponibilità di uno degli indagati, un caravan e una matrice, oltre a 20.000 euro proveniente dalla vendita di un'auto di lusso acquistata con proventi illeciti. Tutti i beni, mobili e immobili, erano stati acquisiti per interposta persona con i bottini degli assalti ai bancomat commessi dagli indagati. Ed è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Udine per furto aggravato un cittadino italiano di origini bengalesi di 26 anni, pregiudicato. Durante la notte l'uomo è entrato nella pizzeria all'Opera in via Cividale a Udine. Il titolare però lo ha visto attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza e ha chiamato la polizia. La volante ha trovato il ladro che rovistava tra gli scaffali della cucina. Perquisito, gli sono stati trovati 50 euro in banconote di vario taglio e un cellulare di proprietà del gestore del locale. Sottoposto a perquisizione ulteriore, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato in quanto commesso in un luogo in cui si somministrano cibi e bevande. Per lui è stato disposto l'obbligo di firma. Durante la demolizione dell'ex fiera di Pordenone è spuntato dell'amianto. Il cantiere ha subito una battuta d'arresto, critica Legambiente, mentre Opera Sinistra annuncia un'interrogazione. Ora che in ex fiera il danno ambientale è fatto, i lavori fermi confermano che la fretta era solo quella di tagliare gli alberi e far sparire le prove della loro età. Legambiente Pordenone interviene con una nota sulla riqualificazione dell'area che ospiterà il Polo Young, il moderno centro sportivo voluto dal comune, contestato da una parte della cittadinanza, sostenendo come la situazione di stallo dimostri che il taglio affrettato degli alberi serviva a mettere a tacere un movimento di persone contrarie al progetto finanziato dal PNRR. Il cantiere non è affatto fermo, replica l'assessora all'urbanistica Lidia Diomede. Sono state eseguite delle lavorazioni interne, stanno procedendo le demolizioni, proprio ieri sono iniziate quelle esterne. Nei giorni scorsi è stato trovato dell'amianto in alcune aree dell'edificio da demolire, un intoppo che richiederà tempo e denaro disponibile da fondi già accantonati per gli imprevisti, secondo il sindaco Ciriani. Quanto tempo e quanto denaro verrà definito entro la settimana dopo l'incontro con la ditta incaricata della bonifica. I sondaggi iniziali a campione non avevano evidenziato problemi, sondaggi più approfonditi hanno rilevato la presenza di amianto in alcuni punti del tetto, spiega Diomede. Opera Sinistra FVG ha annunciato un'interrogazione per conoscere quali siano state le analisi preliminari sui manufatti da demolire e se ci siano stati anche altre motivazioni per l'interruzione dei lavori. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica campagna elettorale in vista dell'8 e 9 giugno con gli incontri organizzati da Südtiroler Volkspartei e Slovenska Skupnost. La campagna per le elezioni europee ha visto l'arrivo ieri a Trieste di Herbert Dorfmann, capolista della Südtiroler Volkspartei, il partito delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, lista con la quale è candidata alle europee anche la sindaca uscente di San Floriano del Coglio, Franca Padovan, della Slovenska Skupnost. Un'alleanza consolidata, quella tra la Südtiroler Volkspartei e la Slovenska Skupnost. Quest'anno ho accettato io la candidatura sull'SVP come partito della Slovenska Skupnost perché è una collaborazione rappresentazione storica. Il partito dell'SVP è un partito delle minoranze, come lo siamo noi, e so che lui rappresenterà la nostra comunità, la nostra minoranza in modo eccellente. Entrambi i candidati hanno anche sottolineato che il collegamento della lista della Südtiroler Volkspartei con Forza Italia è un collegamento tecnico previsto dalla legge italiana per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo, che altrimenti non riuscirebbero a superare lo sbarramento del 4%. Sulla nostra lista ci sono candidati della minoranza tedesca, ladina e di quella slovena, e chi vota per noi dà il voto a questi candidati, ribadisce Dorfman, che sotto il suo slogan Determinati per l'Europa intende portare a Strasburgo anche le istanze degli agricoltori. L'agricoltura è importante sia per nutrire noi tutti, ma soprattutto anche per gestire il territorio, e questo vale per le zone più favorevoli, ma anche per le zone più difficili, come lo sono anche qui in Friuli Venezia Giulia. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alla stazione Rogers di Trieste l'esposizione Nel giardino degli invisibili è stata arricchita da una serie di attività coordinate dal gruppo di lavoro delle studentesse del laboratorio antropologico Archivio di Frontiera. Alle 17 è in calendario l'iniziativa sul silo di Trieste e le condizioni di vita al suo interno, con la partecipazione dei volontari del silos e di chi lo abita. Bruno Bearzi Tolmezzino è stato riconfermato per il terzo mandato presidente regionale di Confcommercio Figis, che è il sindacato dei gestori degli impianti stradali di carburanti. Il suo vice verrà indicato prossimamente. Bearzi dal 2019 è anche presidente nazionale della categoria. Ha anticipato che continuerà a impegnarsi per rappresentare esigenze problematiche di una categoria che in Friuli Venezia Giulia riunisce 450 impianti per un totale di 1500 addetti e che, ricorda Bearzi, attraversa da anni una situazione molto complicata dal punto di vista economico e occupazionale. Sono le 12.42, passiamo al meteo. Il cielo è coperto con sulla regione queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 18 gradi e 5 decimi, a Pordenone Udine 18 e mezzo, a Gorizia 18, a Tolmezzo 15, Tarvisio 13, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, Sappada 11, Piancavallo 10 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 7 e sul Monte Lussari 6 gradi e mezzo, a Grado Lignano 20. Le previsioni dell'ARPA: oggi piogge sparse intermittenti da abbondanti e intense con possibili rovesci e temporali, più probabili sulla fascia prealpina, vento di scirocco moderato sulla costa, in rotazione a libeccio dalla sera. Ricordiamo che c'è un allerta giallo in vigore fino alla mezzanotte. Domani su pianure, zona montana, cielo da nuvoloso a variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio verso la fascia prealpina con piogge localmente anche intense sulle prealpi Giulie, sulla costa maggiori schiarite con cielo poco nuvoloso, ma non si esclude qualche breve rovescio. Il Museo Striano a Trieste espone i manifesti pubblicitari, le vignette satiriche e i fumetti degli illustratori della Venezia Giulia attivi tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno. Raccontano i desideri della nascente società moderna e consumistica tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Sono le illustrazioni della Venezia Giulia, allestite alla mostra al Museo Istriano a Trieste. Una testimonianza di come anche dal Friuli alla Dalmazia gli artisti si siano cimentati a sperimentare nuove tecniche di illustrazione che diventano vere e proprie opere d'arte con fini pubblicitari e propagandistici. Il curatore Piero Del Bello. Ci racconta anche della società attraverso l'arte applicata ai manifesti, l'arte applicata alle illustrazioni per i libri, ai fumetti, addirittura ai cartoni animati. Ci mostra un mondo velocissimo che tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento viaggia verso una modernità. Il segno grafico per pubblicizzare un prodotto o quello per illustrare un'idea, anche una qualunque cosa, è quell'anima meno nota dei nostri artisti. Manifesti